con Natia Migliori dell'Associazione Culturale Dalia per presentare Stonewall 50, una notte al castello, un evento che è previsto al castello medievale di Palazzolo Acreide in provincia di Siracusa, domenica 11 agosto 2019. Natia, ben trovata. Buongiorno a tutti voi, bentrovati. Ci racconti tutto? Sì, allora l'idea nasce circa 3 o 4 mesi fa, perché appunto sapevamo che ovviamente questo è il 50° anno di ricorrenza di Stonewall, dei moti di Stonewall. Noi premesso siamo molto sensibili a tutto ciò che sono i diritti civili ed umani. In quanto associazione ci occupiamo precipuamente di questo, di cultura e società, nel senso proprio che affrontiamo tutto ciò che sono, come dire, le fasi e anche le zone, tra virgolette, più a rischio, no? Della nostra società, nel senso appunto di migranti e non ultimi appunto gli appartenenti alla comunità LGBT. Quindi ecco, ci siamo posti il problema di dare la giusta rilevanza praticamente alla comunità LGBT in un momento così particolare e così simbolico. E ci siamo mossi, fortunatamente abbiamo un bel gruppo di persone molto sensibili, molto attente, molto in gamba, che appartengono, diciamo, a diversi rami praticamente, perché abbiamo degli artisti, abbiamo un bravo fotografo, abbiamo un avvocato, quindi tutte persone, come dire, che dal loro punto di vista, anche se vuoi professionale, sono riusciti a dare, come dire, la giusta rilevanza a ogni singolo aspetto della cosa, portandolo anche all'interno praticamente del nostro evento. Che accento avete voluto dare e su cosa rispetto a quell'evento basilare per tutto un movimento? Diciamo che quello è il punto di partenza. Noi appunto abbracceremo, come ti accennavo già, la problematica, ma come dire, approcciandoci da vari punti di vista. Quindi partiamo appunto da un dibattito che riguarda i diritti civili della comunità LGBT, l'evoluzione che hanno conosciuto in questi ultimi anni e in qualche modo anche l'involuzione, no? Ciò che si aspettavano e ciò che non hanno avuto gli esponenti della comunità LGBT. E poi però ci muoviamo e scattiamo anche da un punto di vista culturale ed artistico, per cui abbiamo praticamente degli attori che faranno delle performance teatrali molto interessanti, abbiamo degli artisti molto bravi e rinomati a livello nazionale e internazionale che porteranno le loro opere fotografiche, abbiamo delle installazioni interattive, quindi come dirti, tutto naturalmente a tema, proprio perché ci interessa dare rilevanza sia al problema, ma affrontarlo secondo le corde di ognuno degli artisti che parteciperanno all'evento. Quindi ecco, non si parlerà e basta, ecco, ognuno farà qualcosa in base a come sente appunto i vari problemi legati al mondo LGBT, come li sente nelle proprie corde e come sente appunto di esternarli alla comunità, non solo gay, ma anche etero naturalmente. Ecco, un po' già lo hai accennato, come sarà strutturata la giornata? Partiamo alle 18, premesso anche che lo scenario è molto bello perché siamo all'interno, lo dicevi già, all'interno del castello medievale, chiaramente parliamo di ruderi e quindi è tutto molto panoramico, molto scenografico, molto suggestivo e si parte proprio quasi al tramonto. Partiamo con un dibattito, ci saranno degli ospiti molto illustri, Ciro Rinaldi che è un sociologo rinomato a livello internazionale, Vip Sandé che è l'esponente di Sundaram di Torino ed è una trans attivista molto molto in gamba, molto conosciuta dell'ambiente, Coria Menta che è una stylist di nostra vicina di casa perché opera praticamente a Noto, quindi siamo vicini di casa, il tutto sarà mediato da Stefania Tringali che è una brava DJ che è stata la prima e credo mi pare finora anche l'unica che si è occupata di problematiche LGBT, sarà lei a moderare l'incontro. Abbiamo poi la presidente di Azzedo Ragusa, che come sai è l'associazione che rappresenta un po' le famiglie che hanno all'interno, al loro interno praticamente hanno dei figli omosessuali, dei figli gay, mi pare di non scordare nessuno. Ah, ecco, è un altro bravissimo insegnante che si occupa di una problematica molto, come dire, un po' in ombra, ma anche molto molto importante, che è il bullismo all'interno delle scuole verso appunto ragazzi omosessuali. Quindi ecco, come vedi, già gli ospiti stessi vi fanno capire effettivamente che il dibattito sarà molto strutturato, molto articolato e toccheremo varie tematiche. Dopodiché ci saranno 3 proiezioni. di tre film sempre a tema, tra cui un film che ha vinto diversi festival proprio quest'anno, di Fabio Leli, che si chiama L'Unione fa la forza, sta riscuotendo un certo successo appunto in ambito anche internazionale. Dopodiché c'è la stessa nostra ospite, che è Vittu Chandé, che qualche anno fa ha firmato insomma la regia insieme ad altri bravi registi di un film che si chiama Metamorfosi. È un altro film, un altro mediometraggio di un regista palermitano giovane che si chiama Giuseppe Carleo, che si chiama Picchicchi, in dialetto siciliano. E poi contemporaneamente a tutto ciò appunto ci saranno delle performance teatrali, dei reading, una mostra fotografica come ti accennavo già, e questa installazione interattiva. Alla fine di tutto ciò, quindi al nostro fondo arriveremo, avremo anche un DJ set, un lounge bar per rilassarci e divertirci tutti insieme. Un evento assolutamente aperto, perché anche io spero che i palazzoletti raccoglieranno insomma questo invito, perché noi vorremmo che fosse un dialogo inclusivo, vorremmo che anche le famiglie eterosessuali di Palazzo Lacreide partecipassero, e non solo naturalmente di Palazzo Lacreide, partecipassero all'incontro, perché ci farebbe piacere che come dire, ci si mettesse a confronto, ci si conoscesse, perché spesso i pregiudizi nascono proprio dal non conoscersi. Ci parli anche un po' dell'attività dell'associazione? Sì, noi nasciamo un anno fa, siamo nati perché il nostro paese è il paese di Pippo Fava, che tu sicuramente conosci, un giornalista che ci è molto caro, non solo per quello che ha scritto, ma soprattutto per quello che ha fatto. Lui per noi è sempre stato un modello, un esempio di coerenza e di dedizione alla verità, mettiamola così. Quindi partiamo da questo modello ispiratore, abbiamo già dall'anno scorso dedicato un intero festival di eventi al compleanno, a quello che sarebbe stato il compleanno di Pippo Fava, quindi un festival che parte già dall'anno scorso ad agosto e finisce il 15 di settembre. Tra l'altro siamo in piena attività anche in questo senso, e ti anticipo già che avremo Attilio Bolzoni a settembre, avremo Giulio Cavalli, avremo Paolo Borrometti lunedì prossimo, proprio immediatamente dopo Stonewall, quindi una serie di nomi, insomma di persone anche loro molto, molto attive, molto coerenti e col nostro filo di pensiero, diciamo. Quindi partiamo da questo perché, come ti dicevo già, in effetti il nostro intento di base è la sensibilizzazione della gente. Noi vogliamo, come dire, partire dal basso, partire dalla gente comune e far capire alla gente comune che esiste una cosa che è il diritto di ognuno di noi di essere, in tutti i sensi, in tutti gli ambiti, che è inviolabile e intoccabile. Quindi penso che questa sia una sorta di lotta che noi facciamo giorno per giorno, perché appunto ci confrontiamo anche con la mentalità, purtroppo Pippo Fava questo lo diceva, no? I siciliani ce l'hanno radicata la mentalità mafiosa, non è una polemica, credimi, è purtroppo un modo di intendere anche la stessa comunicazione, che purtroppo ha molto radicato magari come dire, l'omertà, il silenzio, il voler far finta di niente. Noi non ci voltiamo dall'altra parte, ecco, noi vogliamo partire dal basso, educare la gente, come dire, cerchiamo di fare naturalmente dei piccoli passi in questo senso, non pretendiamo di cambiare il mondo da un momento all'altro, però questo è il nostro intento, non voltarci dall'altra parte e cercare di sensibilizzare la gente comune, facci nelle scuole, io peraltro sono anche insegnante, a non voltarsi dall'altra parte, a fare la stessa cosa, quindi l'educazione civile, non fisica, proprio civile, a vivere, ad insegnarsi, a muoversi giorno per giorno per cercare di mettere un mattoncino alla volta in modo da rendere magari il nostro mondo, la nostra città, il nostro paese migliori. Ci lasci i riferimenti internet per saperne di più sull'associazione e sull'evento? Sì, allora trovi tutto su Facebook e su Instagram, basta cercare Associazione Culturale Dalia e Stonewall 50 per quanto riguarda l'evento appunto di domenica prossima. Stonewall 50, una notte al castello medievale di Palazzo Lacreide, in provincia di Siracusa, domenica 11 agosto 2019, un saluto e un ringraziamento a Natia Migliori dell'Associazione Culturale Dalia che organizza l'evento. Natia, un abbraccio e in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi il lupo e grazie a voi di cuore, buon lavoro, arrivederci.